Gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti. Ebbene, oggi parleremo, cari radioascoltatori, di un argomento un po' particolare. Quando mangiamo un formaggio, assaggiamo un salume, beviamo un vino, bene, non parliamo di materia prima, parliamo di uva, parliamo di latte, parliamo di carni, parliamo di tantissime cose, di manualità. Ma quasi mai si parla del tempo, il tempo che ci vuole per ottenere il massimo da un prodotto, la temporalità. Cioè, perché un formaggio, un grana per esempio, è meglio a 24 mesi rispetto a 12? In questo tempo cosa succede? Cosa avviene dentro a questo prodotto? Così pure per i salumi, ma per quasi tutti i prodotti che noi mangiamo ogni giorno. Ebbene, non ce lo poniamo mai. Poi c'è un altro particolare molto importante. Chi è che identifica il momento giusto, il tempo giusto, perché dire che quel prodotto è perfetto? Bene, discuteremo di questo, quindi potete intervenire, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Cominciamo da quello che viene considerato il poeta dei formaggi, Vittorio Beltrami. Buongiorno Vittorio. Buongiorno Davide. Bene, Beltrami tantissimi anni fa aveva fatto un convivium a casa sua, dove appunto ci sono le fosse dei formaggi, del formaggio di fossa e di altri formaggi, per discutere di questo. Allora voglio chiedere, Vittorio, ma il tempo, tu che te ne eri già occupato, avevi lanciato questa idea, è così importante nei formaggi? Non solo nei formaggi, in tutto il mondo che mi circonda, che è quello dell'agricoltura, il tempo è una primaria importanza, tanto che il tempo veniva scandito anche dai giorni, i giorni venivano scanditi da determinate usanze o determinate cadenze che lunari. Questo è un fattore primario nelle produzioni non solo dei formaggi, ma tutto quanto ci circonda. Per parlare dei formaggi, c'è un minuto, dobbiamo sapere che il tempo influisce, direi, per il 90% della produzione, perché si può produrre, ma una volta prodotto ci vuole la lungimiranza di pensare come sarà nel tempo quel prodotto, e quel tempo bisogna saper aspettare, bisogna saper annusare, tastarlo, toccarlo quel prodotto, girare molte volte questo, no? Che è un fattore, direi, strano, non so se si può dire, ma mio padre mi diceva sempre: un grande formaggio deve essere trattato come le tette delle donne, più le tocchi più diventano belle, no? Sì. Questa è la verità. Beh, è sì. Questa è la verità. Però tu più lo tasti il formaggio, questo vuol dire tastarlo, girarlo in continuazione, portarlo al naso, sentirgli il profumo e dire, in qualche modo ti devi far sognare. E questo sogno dice, fra un po' questo prodotto diventerà. Ecco, poi c'è in fase anche di un momento di decadenza, quanto noi vogliamo dire, questo prodotto potrà durare nel tempo fino a, poi non è che da domani quel prodotto è subito in fase di non commercio, no? Cioè non è più commerciabile, certo. No? Perché noi diciamo il tempo domani finisce, quel prodotto non è. Sarebbe bene e opportuno anche questo rivedere determinate. Bene, continueremo poi su questo. Sentiamo se questa, diciamo, questa valenza, questa capacità può essere usata, deve essere usata anche nei distillati, nelle grappe. Buongiorno a Stefano Marzadro. Buongiorno, signor Davide. Ecco, il tempo che significato ha sulle grappe, sui distillati? Il tempo serve per farla maturare questa grappa, per renderla più morbida, per portare i suoi profumi allo stato migliore, no? Una volta la grappa si lasciava in damigiane, nelle cantine, non veniva invecchiata, o poco veniva invecchiata nel legno. Adesso invece negli ultimi anni è iniziato anche l'invecchiamento nel legno, in vari tipi di legno. È un'esperienza bellissima questa del... Ecco, come si fa a determinare che quella determinata grappa ha bisogno di 12 mesi piuttosto che di 24? Ma prima di tutto perché è grappa e non vogliamo, cerchiamo che rimanga il suo bel sapore di grappa. Prima di tutto uno appena messo in bocca, anche se è invecchiata, deve rimanere grappa, parlando di 18 lune, no? che viene invecchiata in botti di legni diversi, in botti di capacità diverse. Ma queste lune sono un segno del tempo? Cioè, sono un segno del tempo, certo, sono i 18 mesi. Ah, ecco, quindi le 18 lune sono i 18 mesi, quindi vi basate sono su questa scansione. 18 mesi di invecchiamento, che è quello che prevede la legge, che deve essere invecchiata nei magazzini delle dogane, chiusi delle dogane, e dove viene controllata da loro. E lì mettiamo dentro la stessa grappa in botti di legni diversi, in botti di capacità diverse, in botti di tonnellerie diverse, che è molto importante la tonnelleria. La tonnelleria è come la torrefazione del caffè, ogni torrefazione dà il suo timbro alla botte, no? E ogni botte, quindi la stessa grappa in tutte le botte, e dopo ogni botte dà il suo colore, il suo aroma, il suo sapore, e sta a noi, è la cosa più bella, quello che ti dà più soddisfazione. Di capire. Metterci lì e assaggiare quindi capire il tempo. Grazie a Stefano Marzado e grazie a Vittorio Beltrami. Torneremo fra poco, rimanete con noi, continueremo a parlare di altri prodotti. A fra poco. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare del tempo, il tempo nei formaggi, il tempo nei salumi. Cosa significa? Qual è il punto migliore, così, per dire quel prodotto è pronto? Ma sentiamo Federico da Firenze, un radioascoltatore. Buongiorno Federico. Buongiorno. Senta, io volevo fare solo un'osservazione da appassionato, perché non sono né un produttore né un esperto. Però quando prima parlavate di grappa, sì. Mi veniva da pensare che la grappa, essendo un distillato, non capisco che merito o che cosa possa esserci di miglioramento nel farla invecchiare, perché insomma non è whisky, non è scotch, insomma è... Però magari non me ne intendo e mi sbaglio. Beh, peccato, guardi, ci ha lasciato l'esperto, e quindi sicuramente potremmo tornarci insomma, ma sicuramente c'è un tempo, però stiamo parlando anche del tempo per cui un prodotto è pronto, non tanto sull'invecchiamento. Cioè, per ottenere un prodotto pronto ci vuole X giorni, X mesi, quindi bisogna vedere quanti sono questi. Cioè, non è tanto della stagionatura o dell'invecchiamento come su altri prodotti, probabilmente un tempo di preparazione per cui quel prodotto è al meglio, quindi non è un fatto di vintage o di altro, è veramente il tempo che occorre per cui un prodotto deve essere pronto. Ma quindi numero verde per chi volesse intervenire ancora, 800 24 00 24, messaggi 349 38 238 scusate 6666. Bene, ora abbiamo parlato di formaggi prima, di formaggi di fossa, e abbiamo sentito Vittorio Beltrami. Ora sentiamo uno stagionatore di parmigiano reggiano, perché addirittura è arrivato a portare il parmigiano reggiano a delle stagionature forse qualche anno fa impensate. E allora io vorrei sapere perché oggi è possibile stagionare un formaggio 100 mesi mentre un tempo non lo era possibile. Buongiorno Paolo Gennari. Buongiorno a tutti. Ma innanzitutto Davide, voglio dirti che il nostro prodotto si potrà stagionare anche alcuni anni fa, perché noi abbiamo una lavorazione molto diciamo sul grasso, quindi un prodotto che si può portare nel tempo maggiormente. La differenza è una sola, che in questo momento il consumatore è pronto e preparato per avere un prodotto del genere, un prodotto che può diciamo essere ben accolto da un consumatore, da un palato sopraffino un po' più evoluto. Ecco. Quali sono le differenze tra un parmigiano di 14 mesi e un parmigiano di 60 o di 100 mesi? Cos'è che cambia? Cos'è che avviene in questo periodo di tempo in cui è lì solo, messo su un asse che viene continuamente rigirato? Cosa avviene dentro? Allora, diciamo che innanzitutto è una sfida contro il tempo, quindi questo è bello. Una cosa particolare è che chiaramente diventa ancora più digeribile il prodotto, perché assumendo stagionatura come da noi fino a 100 mesi diventa quasi un prodotto digerito, e poi si assumono, diciamo, dei sapori molto caratteristici. Ad esempio a 12-14 mesi abbiamo un sapore molto lattico, un sapore molto dolce, delicato. Man mano che andiamo avanti con stagionatura, ad esempio passando il 36, abbiamo un prodotto più più pronto, più saporito, cominciano a assumersi spori, diciamo, di quasi di codi, come si può dire, appunto di bosco, così, di sottobosco. Invece arrivando fino a 100 mesi diventa un prodotto quasi la consistenza di un cioccolato e assumendo quasi anche sapori, diciamo, animali, tra virgolette, quindi dei sapori, dei sentori molto molto particolari. Senta Gennari, come fa un produttore, uno stagionatore a individuare quali sono le forme che possono durare tanto nel tempo, mentre ci sono forme che sicuramente non hanno questi tipi di durata? Ecco, quali sono, diciamo, i parametri? Allora, innanzitutto noi produciamo circa 1200 forme al mese. Noi cosa facciamo in queste forme qua? Nei mesi, diciamo, dai ottobre ad aprile, che per me sono i mesi, diciamo, migliori, più adatti per tale stagionatura, cosa facciamo? Scegliamo le 100-200 forme migliori. Quindi per noi migliore cosa vuol dire? Forme più morbide, forme più grosse, forme di quasi 50 kg vengono messe, come diceva lei, a stagionare in questi, diciamo, ambienti naturali, e sono forme che, diciamo, come strutturalmente possono star lì così tanti mesi. Bene, grazie a Paolo Gennari, grazie. Ricordo il numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Ora passiamo a un altro prodotto che ha bisogno di tanto, ma veramente di tanto tempo, che è l'aceto balsamico tradizionale di Modena. Allora io voglio chiedere, cioè 12 anni come minimo, 25 come extravecchio, pensate quanto tempo rimane l'aceto balsamico. Allora voglio chiedere a Mariangela Montanari, produttrice, che cosa succede in questo tempo in queste botticelle? Buongiorno. Ciao Davide, buongiorno. Guarda, il prodotto tradizionale, come dicevi tu, ha bisogno di tantissimo tempo per l'invecchiamento. L'invecchiamento del nostro prodotto è un invecchiamento attivo, nel senso che noi come produttori interveniamo nella fase di invecchiamento, nel senso che ogni anno vengono fatti i travasi, i rincalzi sulle botticelle. Quindi è un invecchiamento che subisce comunque l'intervento dell'uomo. Che cosa succede? All'inizio il mosto cotto dal quale noi partiamo è un prodotto completamente dolce, con la sola acidità di fondo che le deriva appunto dall'uva, che comunque come prodotto è inizialmente ha una sua acidità di base. Poi viene cotto, quindi assume questo colore, questo sapore dolce, colore bruno chiaro. Viene messo all'interno delle botticelle e inizia il suo ciclo produttivo. Pian pianino acquisisce acidità, acquisisce corpo, acquisisce quei profumi e quei sentori che sono tipici del legno e si definisce, in un certo senso, si definisce lentamente il carattere del prodotto. Arrivi alla prima fase di invecchiamento, che sono i 12 anni, dove hai un liquido che è già scirupposo al palato, ha una buona acidità bilanciata dall'altra parte da una dolcezza abbastanza equilibrata, è un prodotto che è già abbastanza intenso, quindi ti permane all'interno della bocca e hai dei profumi molto molto caratteristici. Ecco, volevo chiederti, ma come mai, cioè chi ha deciso 12 anni e 25? Perché queste due date? Perché in quel momento è ai 12 anni e ai 25 anni che il prodotto inizia ad acquisire delle caratteristiche che qui sono state sempre definite come tradizionale. Tu considera che il prodotto è iniziato ad essere commercializzato dopo una storia lunghissima di tradizione sul territorio. Fino ai primi anni 80 il prodotto era un prodotto semplicemente di uso familiare, nel senso che non esisteva una caratterizzazione merceologica del prodotto per il consumo. Quando a suo tempo, quindi in questo periodo, si è chiesto, si è attivato l'iter di riconoscimento del prodotto, sono stati utilizzati come parametri appunto il 12-25 anni, che sono l'età medie che occorrono al prodotto per ottenere quelle determinate caratteristiche che da noi a Modena sono considerate tradizionali, diciamo. Ecco, ma l'aceto di vino, sicuramente ci sono molti che mettono vintage X, vintage Y, ma non c'entra assolutamente niente, cioè il vino, è fermo. Il vino per noi non esiste, nel senso che il tradizionale è un aceto, sì, ma non è un aceto di vino, quindi è un aceto molto molto particolare, perché appunto non ti deriva dal vino, ma viene solo ed esclusivamente, questo lo sottolineo, da mosto cotto, succo d'uva, che viene raccolta, pigiata, e appena pigiata viene cotta a fuoco diretto e a vaso aperto. Quindi noi, pur essendo un aceto di nome di fatto, perché siamo un prodotto a base acida e quindi tradizionalmente da noi il prodotto si chiama aceto, in realtà a livello merceologico siamo un condimento alimentare, perché appunto non deriviamo da vino ma deriviamo da mosto cotto, succo d'uva cotto. Bene, grazie a Mariangela Montanari. Bene, volevo ricordare, visto che si è parlato di vino, che oggi in tutta Italia è stata lanciata la giornata della cultura del vino da parte dell'AIS, e quindi ci sono manifestazioni un po' ovunque. Credo che sia veramente così importante oggi magari riflettere anche su questo fatto, sul bere con moderazione ed altro. Ma allo stesso tempo, così, ho una segnalazione di cronaca che vale la pena sicuramente di fare. Perché? Perché a Forte dei Marmi, scusate, a Pietrasanta, vicino Forte dei Marmi, c'è una enoteca molto importante, che è l'enoteca Marcucci, che è stata sfrattata. È stata sfrattata abbastanza così di forza, e ben 100.000 bottiglie ci sono in questa cantina. E allora cosa succede? Succede che i proprietari se ne andranno, e speriamo che invece che tutto questo patrimonio di enoteca, appunto, che è molto importante, ci sono veramente bottiglie di grande valore storico dentro, siano recuperate in qualche maniera, magari trovano un'ottima collocazione. Bene, ricordo numero verde 800 24 00 24, messaggi sms 349 238 6666, e ricordo ancora appunto di intervenire sul discorso che riguarda non tanto la stagionalità ma la temporalità dei prodotti. Ed ora passo la linea alla regia, credo che ci sia, no, non c'è la viabilità, sì c'è la viabilità, e quindi no, non c'è la viabilità. Quindi passo la linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Di nuovo buona giornata a tutti, ma c'è un sms che mi permette di, come posso dire, ridefinire ancora la trasmissione. E un radioascoltatore, Gigi, mi scrive: e ogni cosa ha la sua stagione, che è un famosissimo libro di Enzo Bianchi. Ecco, noi non parliamo di stagionalità, parliamo di tempo, il tempo impiegato per ottenere il punto, diciamo, ottimale di un prodotto e cosa c'è dentro questo tempo. Sentiamo un radioascoltatore, Elio da Milano. Buongiorno Elio. Sì, buongiorno Davide, mi scusi, io sono un osservatore e ascoltatore della sua trasmissione, e mi porta a fare questa riflessione. Sto parlando per quanto riguarda il tempo. Non crede che tutta questa eccellenza che stiamo dimostrando così su tutto il nostro mercato, selezionato, attento, non sia un escamotage per tamponare una posizione di caduta verticale dei consumi che esiste realmente oggi? Pertanto cercare delle eccellenze, più eccellenze. E credo che questa sia una riflessione da fare, dai consumi alimentari ai vini, a tutte queste cose. Abbiamo avuto una trasformazione morfologica del territorio. Io sono un giornalista che da sempre si occupa di artigianato e conosco l'Italia come le mie tasche. È cambiata la morfologia del nostro territorio, è cambiata, sono incrociati i costumi. Allora l'importante è vendere, e vendere sempre con un sotto, a volte tanto camuffato, invecchiamento, camuffato irrigidimento, oppure i consorzi che obbligano le linee guida per fare un consumo, le ricette che devono essere quelle, perdendo un grande mercato. Io credo che poi alla fine sia una forma camuffata di mercato che non c'è più. Elio, guardi, abbiamo con noi un produttore di salumi che produce delle grandissime eccellenze, ma poi ne abbiamo anche altri, però abbiamo Massimo Spigaroli. Buongiorno Massimo. Buongiorno Davide. Tu hai sentito questa, diciamo, questa riflessione di questo radioascoltatore? Sì, sicuramente sono cose giuste. Alla fine tutto il mondo va verso la modernità, verso queste cose. Noi invece siamo artigiani e abbiamo bisogno ancora dei nostri saperi. I nostri saperi li abbiamo nei nostri luoghi, e i nostri luoghi non possono essere distrutti. Se perdiamo questi, perdiamo i nostri saperi, perdiamo la nostra artigianalità e perdiamo i nostri prodotti. Comunque il discorso di cercare eccellenze su eccellenze sempre di più per non far crollare il mercato può essere giusto. Cioè, ti porto un esempio, e qui mi rispondi perché torniamo alla temporalità. Cioè, tu tu produci culatelli, culatelli possono avere 14, 18, 24 mesi. Ecco, e diciamo che l'eccellenza, cioè l'eccellenza ha bisogno di più tempo? Le grandi eccellenze hanno bisogno di più tempo oppure non è così? C'è anche, come posso dire, una forma che ormai è arrivata sul mercato, quello di queste ricercatezze sempre più stagionate, sempre più invecchiate. Sembra quasi che ci sia una corsa a mangiare prodotti che hanno sempre più temporalità dentro. E diciamo che ogni prodotto comunque ha un suo punto d'arrivo e nell'artigianalità ogni pezzo anche dello stesso prodotto può avere un punto d'arrivo, diciamo, o prima oppure, diciamo, molto più posteriore. Insomma, nel nostro caso, che stagioniamo ancora con queste cantine antiche, ci sono delle posizioni in cantina che ci permettono di tenere delle stagionature più lunghe, però queste stagionature e questo punto d'arrivo, che è il punto, insomma, del prodotto, non può essere massificato o dire questo è e dire che a 24 mesi o 30 o 36, che sono sempre le cose che si sentono dire, alla fine un prodotto è il massimo oppure no. Dipende dove è stato stagionato, dipende come è partito, dipende con che carne è stato fatto e dipende un po' da come è aperto o chiuso le finestre, e visto che è un prodotto ancora artigianale dipende da che microclima c'è stato durante tutta la sua vita. Ci sono anni più secchi, anni più umidi, e questo influisce tantissimo sul prodotto. Quindi alla fine penso che il consumatore si debba affidare all'artigiano o al produttore, che sia lui a consigliarlo. Insomma, questo comunque è quello che succede in un prodotto totalmente artigianale, mentre invece in un prodotto più massificato, più industriale, purché essendo che presenta delle caratteristiche, diciamo, costanti, questo difficilmente è il prodotto dell'artigiano. Ecco, sentiamo un radioascoltatore, Carlo, dalla provincia di Belluno. Buongiorno Carlo. Sì, buongiorno. Mi dica. Io volevo solo specificare il fatto che diceva la signora del mosto secco, del mosto d'uva, no? Sì. Cioè, il mosto d'uva è il mosto, già un succo d'uva fermentato, no? Non è un succo, come ha detto la signora, è il succo d'uva appena spremuto. Come lei, fosse il succo di frutta. Ma lei si rivolge all'aceto balsamico tradizionale? Questo è il suo riferimento? Sì, sì, parlavo della signora, partono col mosto, sì. Cotto, no? Sì, certo. Però lei diceva che era il succo d'uva. No, ma sì. È appena spremuto, invece il mosto è già un... No, non credo che abbia detto il mosto, ora non ricordo esattamente, ma aveva parlato di mosto, non di succo d'uva. Succo d'uva probabilmente ne ha parlato quando ha parlato di aceto di vino, ma non quanto ha parlato di aceto balsamico, così mi sembra di ricordare. Comunque, grazie Carlo, ma a proposito di questa chiamata, devo dire che ci sono un sacco di sms, tutti riferiti appunto all'aceto balsamico. A proposito di aceto, che roba è quella in vendita a 5 euro, con tanto di scritte balsamico di Modena, scrive Mario. Un altro, un aceto balsamico denso speciale che ha lo stesso nome di quelli scadenti o normale, non credo sia corretto, andrebbe differenziato. Interrogativo, poi ancora vediamo da visitare. Beh, si parla di visitare il museo dell'aceto balsamico, va bene, andremo. Ricordo, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Bene, ora andiamo a parlare di riso, perché anche il riso ha la sua temporalità e può essere anche così, può avere anche del tempo, appunto, vero Piero Rondolino? Certamente. Il tempo è fondamentale per raggiungere un perfetto prodotto. Questo vale più o meno per tutte le cose. Può essere un giorno, possono essere magari tanti, tanti anni. Il risone è la parte grezza del riso che viene ancora dalla campagna. È lì che bisogna invecchiare il riso, quando ha ancora le sue glumelle. Il riso bianco invece non va invecchiato. Cosa capita invecchiando? Il profumo. Il profumo nel caso del riso si concentra leggermente, il profumo di amido, l'abbiamo sperimentato anche nel riso che invecchiamo 7 anni, niente di più che quello. Per aumentare invece il profumo, che è uno degli elementi fondamentali normalmente nell'invecchiamento, noi abbiamo trovato un sistema che è quello di arricchirlo reintegrandogli la sua gemma, allora lì sì che il profumo aumenta, perché la gemma sa di dolce nocciolina e quindi gli aumenta il profumo. Quello che invece si ha sicuramente con l'invecchiamento nel riso, ancora più evidente quando lo si porta all'estremo di 7 anni, è la consistenza e la tenuta in cottura, che sono un elemento fondamentale. Bene, quindi il tempo gli dà questa forza. Sentiamo un radioascoltatore, Andrea da Milano. Buongiorno Andrea. Buongiorno, salve. Io ho preso in effetti dal vostro ospite un diploma di cuoco della bassa. È stato un esperimento fatto da Spigaroli nel suo locale quando faceva dei corsi di cucina per coloro che erano interessati. Io sono stato anche suo cliente e volevo fargli una domanda riguardo più che al tempo allo spazio, in questo caso, cioè al microclima in cui si consumano poi quelli che sono i prodotti. Nel mio caso il prodotto era stato uno strolghino, che per chi non lo sapesse è un salame di culatello, sì, che mangiato subito, appena tagliato nel parmigiano dove è stato acquistato, aveva un sapore. Già lo stesso prodotto il giorno dopo portato a Milano ne aveva uno completamente diverso. Andrea, mi permette, poi passo la parola a Spigaroli, di fare un inciso su questo. Io credo che non sia solamente lo strolghino, molti prodotti, quasi tutti i prodotti che noi apprezziamo magari in un luogo, in un momento, il famoso pantarei filosofico, poi trasportati o passato quel momento hanno quasi sempre un sapore diverso, hanno un momento diverso, perché li assaggiamo in momenti diversi, in contesti diversi. Però detto questo, che è una mia interpretazione, passo la parola a Spigaroli, magari da un giudizio tecnico sullo strolghino. Prego Spigaroli. Sì, intanto saluto l'ascoltatore, mi fa piacere insomma questa cosa. Sì, sicuramente Davide è così, insomma, alla fine quando si assaggiano i prodotti in un certo contesto esprimono delle aspettative diverse, ma più che altro anche diciamo concettualmente sei preparato a qualcosa d'altro. Poi c'è il trasporto, poi c'è il frigorifero, poi ci sono tante altre cose insomma che vanno ad influire, perché questi prodotti tipici nascono in un territorio perché ci sono certe condizioni. Quando sicuramente li porti fuori, ahimè, qualcosa cambia, insomma. Ecco, a te volevo chiedere comunque un'altra cosa, cioè il momento della decisione di dire, al di là certo dell'angolo della stagionatura particolare, ma al di là di questo, il momento in cui dire quel culatello è pronto, è un'esperienza, ma si può tramandare questa esperienza? Cioè un'esperienza sensoriale, come abbiamo sentito anche prima, ci sono altri prodotti che vengono, come il parmigiano, viene toccato, annusato, visto, quindi c'è una sensorialità. La sensorialità è un fatto quasi sempre soggettivo, è difficile tramandarla da altri. Ecco, chi prosegue queste professioni, questi mestieri? E alla fine ci sono adesso in zona, visto il successo di questo prodotto, ci sono dei ragazzi che si sono avvicinati a questa cultura e a questo lavoro, insomma. Sicuramente queste sono cose, diciamo, sensoriali, difficili da scrivere o da raccontare, puoi solo raccontarle ma devi proprio passarle di mano, e per fortuna insomma qualcuno ci sta avvicinando. Anche il culatello deve essere prima spazzolato per tutta la sua vita, spostato, appoggiato, messo da una parte, abbassato dove c'è più umidità oppure dove c'è più aria, e poi alla fine lo vai a battere, ma lo batti costantemente, e l'ultima prova è quella di inserire l'ago per sentire se tutto quello che tu pensavi alla fine lo senti, insomma non possiamo bucarli in continuazione, e lì è la conferma di quello che tu pensi. Di solito quando hai tanta esperienza, già guardandolo un pezzo sai già più o meno com'è, si sa perché, ma è così. Una cosa veloce, io so che si chiama in maniera particolare questo ago, che poi è fatto da un osso di cavallo, se non erro. Sì, sì, è l'osso di cavallo che viene inserito, è un pezzo della tibia che poi viene appuntito, e la porosità dell'osso permette di portare all'esterno quello che è all'interno, insomma questi profumi oppure anche delle puzze, se fosse così, insomma, questo. Bene, grazie Massimo Spigaroli e Piero Rondolino, passo la linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. E Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di tempo. C'è un SMS che mi fa molto felice, mi dice: vero che l'Unione Europea ha permesso il vino barricato con truccioli di legno per saltare i tempi in botte? Non è il vino barricato, vengono messi truccioli, ovviamente, che anticipano sicuramente il tempo e fanno molto, ma molto risparmiare il produttore. Sentiamo Ada da Bologna, una radioascoltatrice. Buongiorno. Sì, buongiorno, dottore. Le volevo chiedere un'informazione. Io ho una bottiglia di grappa che avrà 30 anni e più. Volevo solo sapere, la tengo così per nostalgia, mi piace anche dentro così, come mi piacciono anche i vini tenuti lì così, giusto per vederli. No, le volevo chiedere, siccome mi sono inclusa molto in ritardo nella sua trasmissione, che sento sempre con piacere, praticamente ho sentito che parlava della grappa. Quanto tempo si può tenere una grappa? Guardi, io credo che in questi casi il tempo, appunto, una volta che è in bottiglia, sia il naso di chi l'ha comprata. La apra e veda se è ancora buona. Secondo me è difficile dire anche il vino se ha mantenuto o non mantenuto. È sempre la grappa, sicuramente i distillati si mantengono sicuramente molto, ma molto di più, però perdono in fragranza e perdono in profumo. Sentiamo Mirella da Frosinone. Buongiorno Mirella. Buongiorno, senta, volevo sapere, comprando dei salumi, degli affettati, e magari uno trova il prezzo buono, ne compra un po' di più e lo mette immediatamente sotto vuoto, se conserva il sapore, si conservano meglio. Ma guardi, una volta che vengono tagliati, piuttosto che lasciati magari all'aria aperta o in frigorifero, forse vale la pena di metterli in sottovuoto. Non è che il sottovuoto sì, diciamo, già dà certe garanzie, ma non di molta durata nel tempo. È evidente che anche il sottovuoto ha dei limiti. Però se uno tiene in casa, che ne so, un culatello, man mano che lo taglia, se lo potesse tenere in sottovuoto sarebbe la cosa migliore. Bene, continuiamo questo viaggio e ora parleremo addirittura di mele. Andiamo nei Monti Sibillini da Maurizio Curi. Buongiorno Curi. Buongiorno. Senta, c'è un tempo per la maturazione delle mele dei Monti Sibillini, mi dicono, è vero? Sì, c'è un tempo che è molto importante, la sua presenza, diciamo, in pianta, in modo tale per stare a contatto direttamente con la natura e quindi con le piogge e il sole, che sono le due caratteristiche fondamentali per una giusta maturazione. Diciamo che l'importanza del tempo è un modo per dare maggiori caratteristiche al frutto e quindi a dare tutte quelle caratteristiche sono le, diciamo, tre più conosciute, che è odore, sapore e gusto. Ecco, quanto tempo rimangono queste mele? Queste mele, diciamo, adesso sono piccolissime in questo periodo qui. La raccolta viene fatta nel periodo che va dai primi d'ottobre verso il 20 d'ottobre. Dipende un pochettino dalla stagionalità, nel senso, dipende se abbiamo avuto una primavera, un'estate piovosa o soleggiata, e quindi ne deriva anche un tempo di maturazione. Ho capito. E come se lei lo capisce al volo quando è il momento, appunto, X in cui... Capirlo al volo, diciamo che un po' è anche la pianta che ci permette di capire al momento, nel senso che la pianta stessa, la mela rosa in questo caso, lo si fa capire che vuole essere raccolta perché inizia, se vogliamo dire anche un po' così, a cadere a terra e quindi vuole essere staccata. Quindi diciamo che si capisce, perché sennò si sciupa, se cade a terra ovviamente si perde, quindi è importante capire questo momento. Grazie a Maurizio Curi, La Golosa. Matteo da Modena, un radioascoltatore, buongiorno. Buongiorno, ascolti, io volevo fare alcune puntualizzazioni su quanto riguarda l'aceto balsamico, che se ne è parlato un po'. Io sono abbastanza fortunato perché a casa qui a Modena lo produciamo, tra l'altro è Modena la terra dell'aceto. Ho sentito che sono arrivati degli SMS che chiedevano qual è la differenza tra l'aceto balsamico tradizionale di Modena e quello che si acquista al supermercato. Innanzitutto l'etichetta, perché l'etichetta e anche la bottiglia, comunque sull'etichetta quando vediamo scritto... Ma mi scusi Matteo, la prima differenza è che c'è scritto aceto balsamico di Modena, l'altro è aceto balsamico tradizionale di Modena, quindi credo che il consumatore dovrebbe fare attenzione a questo. Quel tradizionale significa che è diverso dall'altro, quindi io credo che questo sia, al di là della bottiglia, che sicuramente ha un altro significato molto importante, però quel tradizionale secondo me dice tutto. Certo, dice tutto, perché tradizionale è proprio dato dalla tradizione. E appunto, comunque quando v'è scritto tradizionale è un'altra cosa. È un altro costo, ha un altro costo completamente diverso. Quindi io credo che ormai, cioè su questo se ne è parlato, io credo che appunto ormai il consumatore su questo dovrebbe essere un po' sgamato. Magari forse c'è anche qualche venditore in cattiva fede che lo fa e lo trae in inganno, però credo che ormai il significato sia questo. Grazie Matteo. Sì, lo dovevo puntualizzare prima, ci vuole una trasmissione su questo, ci vorrebbe una trasmissione, magari la rifaremo, l'abbiamo fatta in passato, la rifaremo. Grazie però di aver segnalato questo problema. Bene, ora chiudiamo questo viaggio con un personaggio che fa nella vita affinatore. L'affinatore, secondo me, e non so se lui è d'accordo, è colui appunto che scandisce i tempi dei formaggi. È così, Giovanni Fiori? Ciao Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, è così, anche se, visto che sono state fatte tante puntualizzazioni, faccio una velocissima puntualizzazione sul discorso dell'affinatore. A me fa piacere che tu mi definisca affinatore, in molti definiscono me e la mia famiglia affinatori. In realtà in Italia l'affinatore è un mestiere, così io lo definisco, assolutamente non riconosciuto. Ci autoproclamiamo affinatori, se fossimo in Francia saremmo degli affineur a tutti gli effetti. Per tornare al discorso legato appunto al tempo, al tema della trasmissione, il termine proprio affinatore significa portare, protrarre nel tempo un periodo di stagionatura. In questo caso stiamo parlando di formaggi, per chi appunto non lo sapesse, quindi andare oltre quello che è il periodo normale di stagionatura di un formaggio. Questo noi appunto lo facciamo con parecchi formaggi. Mi verrebbe anche voglia di, non voglio rubare troppo tempo, ma mi verrebbe anche voglia di allargare un momento questo tema del tempo, perché è vero, il tempo in molti casi viene utilizzato per migliorare determinati prodotti, per determinare anche le caratteristiche di prodotti che hanno come base la possibilità di avere delle evoluzioni grazie al tempo che passano in cantina o in ambienti ben definiti, dove c'è una temperatura, un'umidità, un microclima adatta all'evoluzione del formaggio piuttosto che dei salumi, come abbiamo parlato prima. C'è anche però da considerare a monte il tempo che professionalmente un formaggiaio, affinatore, come io mi definisco, deve dedicare per selezionare e scegliere il prodotto, quindi dedicare molto del proprio tempo alla scelta di un prodotto che poi, posto in un ambiente idoneo e adeguato, ti permetterà di raggiungere determinati risultati. Bene, ti dico solo una cosa al volo, i risultati, sì, che alla fine ci interessano è che sulla tavola vada un prodotto che ci crei delle sensazioni, che ci faccia piacere mangiare per la struttura, per il gusto che ha. Bene, tu hai chiuso questa trasmissione in maniera splendida, perché hai dato proprio, diciamo, il tema di questa trasmissione, portandolo sull'affinamento dei formaggi, però diciamo che anche su tutti gli altri prodotti. Bene, siamo arrivati appunto al termine. Io auguro a tutti una buona settimana, vi do appuntamento domani con il riposo del guerriero alle 11:15, ogni giorno con la pillola alle 11:05 e alle 23:05. Ringrazio in regia Filippo Aureggi, in redazione Anita Panizza e Margherita Fraretti. Quindi alla prossima settimana e buona settimana a tutti. Il Gastronauta.